Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Si calcola che nel 2015 saranno circa 8 miliardi le batterie al litio che dopo un paio di anni di onorato servizio verranno avviate allo smaltimento. Questi numeri negli ultimi anni sono raddoppiati di media ogni 5 anni. Sul litio poi si punta per produrre le batterie delle auto elettriche e ibride di domani, per cui il consumo di questo metallo, diffuso ovunque ma presente in concentrazioni che ne rendono economica l'estrazione solo in pochi posti al mondo, beh, insomma, è probabile che crescerà per molti anni a venire. Così, insomma, tra il rischio di una invasione di rifiuti e il rischio che uno dei materiali chiave dell'economia del XXI secolo diventi, infine, troppo costoso, beh, tutto suggerisce che è il momento di mettere a punto processi industriali per riciclare questo elemento, il terzo della tavola periodica, il più leggero dei metalli. Cosa che, come vedremo, però, non è per nulla facile. Ne parliamo con Jonathan Filippi, ricercatore del CNR. Buonasera Filippi. Buonasera. Dunque Filippi, l'istituto del CNR in cui lei lavora, l'ICCOM, e il COBAT, che è il consorzio che da 25 anni gestisce il riciclo delle batterie, hanno recentemente stretto un accordo appunto per mettere a punto un processo efficiente e sicuro per riciclare le batterie al litio, e lei appunto è responsabile di questo studio. Le chiedo subito se esiste già qualche esempio in giro per il mondo di questo tipo di lavorazioni su scala industriale o se non c'è proprio nulla. In Belgio abbiamo la Umicore che già ha iniziato i processi di riciclaggio delle batterie al litio. Non c'è molto comunque all'estero di tali processi. Altri processi in Cina e in Brasile vengono messi a punto mentre parliamo, però ovviamente tali volumi non sono ancora sufficienti per garantire uno smaltimento completo. Le batterie al litio sono presenti sul mercato. D'accordo, insomma, quindi in Europa c'è un solo impianto in questo momento, assolutamente insufficiente, e comunque con i suoi brevetti e delle procedure che non possono essere utilizzate da altri. C'è qualcosa tra Cina e Sud America, comunque sempre insufficiente, anche lì si sta lavorando su questa tematica che ha bisogno di essere messa a punto. Perché? Come mai è così difficile smantellare queste batterie al litio? Beh, ci sono vari problemi che affliggono i processi di smaltimento e riciclaggio delle batterie al litio. Si dividono in problemi di sicurezza, problemi di tipo pratico e problemi di tipo economico. Per quanto concerne i problemi di sicurezza, le batterie al litio sono abbastanza instabili perché contengono un metallo alcalino, che è appunto il litio, facilmente infiammabile in presenza di aria e ancor più in presenza di acqua, perché si produce ovviamente idrogeno che col calore si incendia all'istante. In più le batterie al litio contengono altri materiali infiammabili come solventi organici e plastici che contribuiscono a fare da accelerante il caso di un incendio delle batterie al litio. Questo è un problema principe durante lo smontaggio. In un'ottica industriale non è possibile smontare le batterie al litio a mano, quindi è necessario mettere su dei processi che permettano lo smontaggio rapido ma in sicurezza. Insomma, vanno frantumati questi involucri, diciamo, però senza causare incendi o esplosioni. Tra l'altro spesso queste batterie non sono del tutto scariche. L'energia va rimossa, vanno scaricate, si possono creare cortocircuiti che fanno da innesco appunto. Quindi problemi di sicurezza li abbiamo detti, problemi di altro tipo quali sono? Sono anche problemi di tipo pratico, ovvero dal momento che le batterie in commercio hanno formati tali diversi, ovviamente abbiamo batterie da smartphone, batterie da tablet, batterie da portatile e batterie da autotrazione. Tutti questi formati fanno sì che è necessario creare un processo che permetta di trattare in modo efficace tutti i formati differenti. Senza dover mettere a punto processi diversi per ogni tipologia di batterie. Tra l'altro non è che cambi solo la forma, da quello che ho capito. Cambia la forma, cambia la chimica, materiali di contenimento. C'è sempre il litio dentro, che diciamo è il materiale principale, però poi il litio può essere associato con tanti altri materiali diversi e lì cambia tutto. Come si fanno a separare questo groviglio, insomma, di materiali, queste miscele, non so? Inizialmente la separazione viene operata togliendo il contenimento, vari circuiti elettronici di protezione che sono onnipresenti nelle batterie al litio. A questo punto si passa alla separazione dell'elemento attivo contenente appunto il litio e altri metalli di supporto. Tipicamente come avviene questo? La separazione avviene tramite processi derivanti dall'idrometallurgia, ovvero attacchi acidi, attacchi basici, attacchi a ultrasuoni, attacchi di tipo anche biologico, microorganismi. E visto che lei è un grandissimo esperto di batterie e di problemi di batterie, le chiedo, siccome ogni tanto capita, si sente a volte raccontare questa cosa di queste batterie al litio appunto che prendono fuoco, che cosa bisogna fare se succede? assolutamente mai usare acqua. Ecco, questa l'acqua sostanzialmente non fa altro che velocizzare le reazioni di ossidazione del litio, accelerando ulteriormente la reazione di combustione. Quindi come buttarci la benzina, letteralmente. Per estinguere l'utilizzo della sabbia, in modo da poter assorbire il calore e separare dall'ossigeno. Grazie Filippi. Arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.